Andare alla zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta. Io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto. Allora, ciao. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma buonasera, buonasera miei piccoli schifosini. Parezzo, non si entra nell'angolo rotture della zanzara. Beh, una passata di dittatura non è che farebbe male, eh. Quanti soldi devi avere? Da lì. Ma quelli che sono solo! Porca la puttana, è andata a fanculo! Bondrini, Bondrini, scusami, sei una brava ragazza, sei un'amica dei cristiani ed è morta! Hai visto Macronne? Hai visto? È meglio lui dell'Ale Penne. Tu sei un delinquente! Tu sei l'ultimo dei delinquenti! Perché stai facendo, Palenzo, il gioco più sporco contro gli italiani! Contro gli italiani! Ma Donato Di Varese non basta con te, ci vuole il leone con te! David! Ragazzi, la Boldrini è come l'ISIS, è come l'ISIS. Dice che molti italiani provano fastidio ad avvicinarsi ai monumenti fascisti. No, ma tutti, beh. È una cosa patetica, lo vogliamo dire che questa roba qui è una cosa ridicola, una cosa patetica, una cosa senza senso. Ma chi prova fastidio? Nessuno prova fastidio. Ditemi una persona, forse il suo cane, il suo gatto, che ha un gatto, forse il gatto della Boldrini. Nessuno in Italia prova fastidio ad avvicinarsi all'obelisco, ad altre cose. La maggior parte delle persone pensa ad altre, pensa alla propria vita, ai problemi che ha, non a quel monumento là, chi l'ha fatto, non gliene frega una mazza a nessuno. Vivono su un altro mondo, vivono su un altro pianeta, vivono su un altro pianeta. Ci sono persone che si sentono infatti colpite da questo, a volte anche offese. Io quando ho accolto i partigiani alla Camera, questi, alcuni di loro hanno evidenziato questo stato di cose dicendo che non accade altrettanto in Germania, dove i simboli del nazismo non ci sono più, e quindi si sentono questi vecchi partigiani ancora offesi da questo. I vecchi partigiani offesi dai monumenti e dai simboli del fascismo in Italia, dai ragazzi, ma non lo so, magari sarà pure vero, alza la voce, magari sarà pure vero che qualcuno, ma chi se ne frega, fosse anche vero che uno dice oddio, a me mi hanno, per carità, mi hanno ammazzato il padre, la madre, il fratello, d'accordo, per carità, ma chi se ne frega? Cioè, la risposta. No, ma questo non è vero, il monumento non ha mai. Invece, ricordare Predappio, quelle scene vergognose di quelli vestiti di nero con il pezzo in testa che vanno a ricordare ogni volta il dittatore, quello fa schifo. Ma che fa schifo? Ma è una roba retata, normale. Ma che retata a Predappio? Sei patetico, dai. Una bella retata. Sei patetico, dai. Sei patetico. Documenti, identifichi le persone e poi sbatti questi neofascisti patetici in un bel, sì, in un bel centro di prima accoglienza per migranti. Li fai lavorare lì. Ma che migranti? Ma smettila. Alcune persone sono a poco, sono, non sono a proprio agio sotto certi monumenti. No, ma questo non è vero. Sarebbe come dire che un cristiano, ma, quando passa davanti questo, al Colosseo, cioè, questo personaggio è ancora presidente della Camera. Per fortuna, no, vabbè, ci si voterà prima o poi. Sai che ti dico una cosa? Io sicuramente, dove c'è la Boldrini, voto dall'altra parte. Non, vabbè, c'è dubbio su questa cosa. Una cosa eccessiva. E... No, ma non c'è dubbio su questa cosa qua. Cioè, io penso che veramente non c'è stato peggior presidente della storia della Repubblica. Sì, sì, sì. Al contrario, la Pivetti era Churchill. Ti posso assicurare che la Pivetti al confronto è Churchill. Churchill. No, ma assolutamente, ma no, ti ripeto, al confronto della Boldrini, al confronto della Boldrini, basandomi solo sulle dichiarazioni, la signora Pivetti era Winston Churchill. No, vabbè. Uno, ecco, statista! Non essere, non essere sempre eccessivo. Ma nelle che tue eccessivo? È la realtà, è la fotografia della realtà. Dai, non su. Essere sempre gente miracolata, gente miracolata che arriva in politica miracolata. Eccessivo. Dai, e passa anni a farci una testa così su cose inutili, dai. È evidente che in Italia questo passaggio non c'è stato, e in Germania c'è stato, però non possiamo sottovalutare neanche il fatto che ci sono alcune persone che hanno dedicato la loro giovinezza a liberare il nostro paese, che si sentano poco a loro agio quando passano sotto certi monumenti. Vabbè, a Boldrini, senti, fatene una ragione, non puoi abbattere i monumenti di come se fossimo in Afghanistan, non sei, no, l'ISIS, è una follia, ma non guarda, sei l'ISIS, per cui metti l'anima in pace, dai. No, ma sarebbe come se il Papa chiedesse l'abbattimento del Colosseo perché lì i leoni mangiavano i cristiani. È assurdo, no? Questa è una cosa che non ha senso. Pronto? Allora, interviene pure la Mussolini in questa discussione abbastanza surreale, diciamo la verità, che da qualche giorno si trascina, ma a noi ci piacciono molto anche le discussioni surreali, dunque certamente non ce ne vergogniamo. Cioè quella che è stata avviata ancora una volta dall'episodio di Chioggia, interviene anche Alessandra Mussolini. Alessandra Mussolini, secondo la legge Fiano, quella che dovrebbe proibire la propaganda attraverso i simboli, pure quelli sul web, con le pene precise, eccetera, la legge in realtà c'è già, dunque è una cosa inutile. Secondo queste leggi io sono un reato vivente. In collegamento siamo andate noi a raggiungere Alessandra Mussolini. Buongiorno, europarlamentare di Forza Italia. Buongiorno. Allora, secondo questa legge io sarei un reato vivente. Oh sì, Verini, è così. Se dovesse passare questa follia. Questa norma folle, addirittura con questa norma, se io in una prossima campagna elettorale vado a dire vota Mussolini, bello, me lo scrivo, viva mio nonno, qua, cosa che se passa la legge farò, così mi mettono in galera finalmente e sono contenta perché una passata di galera fa sempre bene. Beh, insomma, anziché Mussolini, mettere in galera la gente, ma sì, ma lascia fare. Scontro Fiano Morelli. Morelli è sempre il direttore di Radio Padania, della ex, della fu Radio Padania. Per rispondere a di opinione, vabbè, però io non posso partecipare a una trasmissione, io non posso parlare. Morelli, le voglio, ti voglio bene. È la base dello Stato liberale, però, capisco che Morelli, per favore, è molto faticoso. Invasato sarà lei e impari a non offendere. Io non sono invasato, porto delle leggi in Parlamento, noto, se hanno i voti sono, noto, se hanno noto, i voti sono noto, approvati, noto, perché siamo in democrazia. Nella Repubblica della Lega Nord fate come volete. Morelli, sbaglio, Toninelli dei 5 Stelle, Parenzo, Toninelli? Sì, Toninelli, sì, dei 5 Stelle. Di dice l'apologia è solo uno spot per il PD, ci sono già due leggi per i pezzi di merda dei fascisti? Dice proprio così, signor Toninelli. Beh, su questo dice cazzo, una cosa. Ma cazzo vuol dire, scusa, non ho capito. Uno potrebbe dire anche per quei pezzi di merda dei comunisti. Forse non hai capito ancora. Perché come tu mi forse non hai capito non ancora, perché comunisti e fascisti pari sono. Anzi, i comunisti nel mondo hanno ammazzato un sacco. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Roba del 48, finita, morta. Mi piace per te. Finita, in Italia, morta. In Italia dirti comunista per fortuna non è un reato. Ma dai, su, ideologia di morte, dai. Ma cosa c'entra? Chi se ne frega? La Costituzione è una roba fatta nel 48. E allora butta tutto nel cesso. Sì, io per forse per me sì. E allora con quali regole di Toninelli, convivenza civile pensi? Toninelli. L'apologia del fascismo è un provvedimento spot del PD che sono ridicoli, ma ve lo dico semplicemente, con molta semplicità. Ci sono due leggi che già condannano quei pezzi di merda, scusatemi, dei fascisti. Quando è che chiudete, cornuti? La Zanzara. E volevo parlare un po' che i pucciacco, no? Siamo con questo fascismo, questo comunista. E io a morte. Io non ho capito, vogliamo abbattere Latina? Per esempio, vogliamo abbattere Latina? Quasi interamente Latina, no, dai, ma su. Nessuno ha mai proposto questo. Non rendere farsa un provvedimento sul quale si può discutere, ma non buttarla. Ma è tutto propaganda, se vuoi, no? E anche l'esistenza di un monumento è propaganda, dai. Qua, ma non è vero, nessuno ha mai detto una fregata. Senti, bello mio, in democrazia funziona così. In Italia non ci si può dire fascista, come in Germania non ma si può dire. Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero, non puoi ricostituire, non puoi ricostituire il partito, è diverso. Selva. Pensa a te, ti piace Scelba, ti piace Scelba. Pensa a te. E poi c'è la legge Mancino. Se un signore si mette a dire io sono fascista, non succede nulla. Dire, ma lo deve dire nel non succede nulla, non succede, non succede nulla nemmeno in pubblico. In questo paese non ci si può dichiarare. Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero, non si può ricostruire il partito, non hai capito un cazzo. Dopodiché, certo, non si può ricostruire il partito. E allora non dire di dubbio. Ragazzi, però parliamo di un'altra cosa. Allora, non so se avete seguito, sicuramente molti di voi hanno seguito la vicenda dei due fidanzati travolti da una macchina. Con particolari agghiaccianti della morte di quella ragazza e il suo fidanzato in fin di vita praticamente. Mamma mia, non me ne parlare neanche. Allora, io dico una cosa. Non me ne parlare, una cosa. Io non capito, non riesco a capire, pare che oggi si vada verso l'omicidio volontario. E molte testimonianze dicono che questo mezzo matto che era la guida di una van, di una macchina, un criminale sì, certo, adesso ancora non è stato condannato da un tribunale, però insomma sembra tutti un criminale, abbia fatto 2 chilometri superando le altre macchine per andare a speronare poi quel motorino. Allora io vi dico una cosa, state tranquilli quando siete, ci sono moltissime persone che guidano, non reagite mai. Una volta a me è successa una cosa incredibile, cioè ho fatto il dito medio a uno. Cioè, mi ha preso una botta da matto, mi ha fatto il dito, ma non lo faccio mai. No, non ma lo faccio è pericolosissimo. Mi ha rincorso per 2-3 chilometri. Era un ultra dell'Inter che poi mi ha riconosciuto. E me la sono mi ha rincorso tipo per 3 chilometri, tipo ma la gente è matta. Roba incredibile, mi avrebbe massacrato, secondo me. Poi mi ha riconosciuto perché andavo alle trasmissioni di calcio e mi ha, tra virgolette, meno male, figurati, ti sei salvato. Io mi avrebbe ucciso magari. Meno male che Cruciani e non Paretti. No, comunque ragazzi, l'omicidio volontario glielo devono dare per forza, Cioè l'omicidio volontario, se è vero quello che raccontano, soprattutto se è vero quello che riporta un testimone oculare che sentiamo. E il furgone è arrivato prima della rotonda di Condove e li ha presi intenzionalmente, a mio avviso, sotto. Oh, in tutto il dibattito politico, caro David, interviene anche Povia. Il signor Povia. Però di Povia non c'era bisogno, secondo me, per carità. Il quello PD, che canta il piccione, il PD, come il piccione. Sì, hai tante altre cose, anche Luca Raghei. Come il piccione. Ma quale piccione? Vabbè, adesso dai, perché lo pidi per il culo per una canzone che no, ha fatto? Ma che per carità, c'è? Ma che canti il piccione? Com'è la roba del vabbè, piccione? Vabbè, i cantanti, adesso. Ma quando, com'era la roba del quando piccione, ci sono i cantanti sapere di sinistra ti vanno bene perché Povia no, dice... Ma e allora? Com'è un piccione? Ma com'è il piccione? Occupati del piccione, amico mio. Adesso. Il PD dovrebbe essere soppresso. Senti. Ha detto così? Sì, così ha detto. Non è vero. Sì, sì, l'ha detto, l'ha detto. Ma perché? E che cazzo ne so. Cioè, il PD, oltre ad essere il partito della destra capitalista più potente d'Italia, con tutti i danni che avete fatto, è l'immagine provata della vera dittatura. Questo è il partito che andrebbe soppresso domani. Faccia un corso accelerato di economia, signor Fiano. Adesso, amico mio, che Povia si metta a parlare del PD come partito della destra capitalista. Mamma questo mia, effettivamente è un po' troppo. Questo deriva dal fatto che uno vale uno, il diritto di vabbè, parola. Adesso è che non può votare Povia. Com'è un piccione? Com'è? Ma non la sai nemmeno, non la sai, non la sai nemmeno. No, non voglio sentire poi il dice Povia. Ho il diritto di sentire. Beh, poi te lo faccio sentire. Non mandarci a... Ma non era così, non mandarci a votare il fascismo, dice. No, guarda, io però ti voglio avvertire, Povia, che fra, fanno... che fra un po' che fra un po' si va a votare, cioè non è che non si va a votare, non è che non ti ci vogliono mandare a votare, fra un po' si va a votare. In 5 anni più o meno si vota, cioè, qua si vota. Il suo PD, fatto di persone non elette, ma che governa in modo tecnico e che non manda i cittadini al voto, e non siete una nuova dittatura, peggio del fascismo. Ci sono alcune nozioni fondamentali che il signor Povia non conosce. Ma lui è quello che cantava Luca era gay, sì, adesso sì, lo fa le gang bang con lei. Luca è cambiato, capito? Allora, Povia, è molto diversa la dittatura dalle elezioni che comunque ci saranno qui. Cioè, è molto diverso, molto, il molto diverso. Però vabbè, lasciamo perdere, dai, Povia. Il signor Povia, non me la voglio prendere. Politologo. Massimo dalla provincia di Varese, vai. Ma allora gli volevo dire al tuo amico Parenzo, no, che oltretutto nella sua lucida follia mi è anche simpatico, solo per il fatto che non usa la plastica e la carta a tavola come me. Ma allora lui menziona come Norberto Bobbio un qualcosa a cui tendere. Sì, come però ragazzi, non parliamo di queste cose qui alla 18:53 no, perché sennò mi vengono i coglioni enormi. Capito? Allora di cosa vuoi parlare? Apologia di fascismo. Allora, sì, con lo stesso modo in cui è apologia di fascismo, Bobbio, il saluto Bobbio fascista, il saluto divento fascista, ha la stessa cosa, alla stessa stregua, bisognerebbe punire per condannare per apologia di inquisizione coloro i quali si fanno il segno della croce. Tutto vabbè, questo. Una minchiata, dai, Federico da Parma, dai, ciao, Federico da Parma. Sì, dimmi, ciao. Dimmi. No, volevo dire a Parenzo che è un bel ipocrita, ma proprio... Perché ipocrita? Ma cosa vuol dire ipocrita? Ipocrita. Ma che vuol dire ipocrita? Non lo so, fallo spiegare, aspetta, vediamo. Ma non c'è da spiegare, non mi interessa neanche ascoltare a me. Ascoltalo, Federico, dimmi. No, è ipocrita perché lui... su quelli che vanno a puttane definisce che sono degli sfruttatori dei corpi femminili, certo, quindi che poi ledono i diritti delle donne. Sì. Poi chiama fratelli i musulmani. Ma questo che cazzo c'entra, scusa? Fratello migrante. Sono quelli che meno rispettano le donne a questo mondo. Quindi c'è un po' ma di chi gliel'ha detto a lei? Alcuni sì, altri no. Ma chi gliel'ha detto a lei? Ma cosa dice? Beh, certo, ma gli islamici questo non sono esperti, come dire, nell'esaltazione della donna, però, diciamo. Come si chiama questo che parla? Come si Federico, chiama Federico da Parma. Ecco, io francamente l'Islam, secondo Federico, lo eviterei. Alle ma perché secondo te nei paesi islamici, no, nella religione islamica, no, c'è l'esaltazione del ruolo Federico della donna? Renzo Guolo mi può spiegare. Ma smetti, il professor Guolo. Ma che c'è? Federico, dai. Vai, vai avanti, Buono, Federico, come, vai. Come il muro di Trump e il muro in Israele, e possiamo dire molte su sì, no, ma non ha tutti non ha tutti i torti, ma Federico, però niente, quello il muro di Israele è un muro, ma è un muro antiterrorismo, ma non ha tutti, è quello casa, invece un muro anti-immigrazione, niente. Quello va bene per te e l'altro va bene per gli altri, cioè, ma qual è il problema? Non ho capito. Ma in Israele ad esempio i palestinesi hanno il diritto di voto, cioè, non, dai, non dire cose, cazzate, sì, non... però dai, adesso non sono anche eletti alla Knesset, come tu sai, hanno una loro Michele Roma, vai, Michele, dimmi. Veloce. Buonasera a tutti. Veloce. Parenzo, le volevo chiedere una cosa, perché la Scopu, non avendo le sue idee, è una persona colta, parla bene. Andiamo avanti. Allora, ma questa legge sull'apologia del fascismo è d'accordo che ci ha incastrato a noi vecchi nostalgici di destra e comunque gestite il potere bloccando un eventuale 20-25%? Non ho capito un cazzo e ti sei spiegato non male. Non ricominciamo niente. Fermo. La zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Ragazzi, massima solidarietà verso lo stabilimento balneare di Chioggia. Tutti quanti lì dobbiamo andare, tutti quanti lì. Viva lo stabilimento balneare di Chioggia, viva, viva, viva la libertà! Anzi, datemi l'indirizzo che quest'anno le ferie le vado a fare lì con la famiglia, ma tutti dovremo andarci. Vai Cruciani, Parenzo, sei la solita chiavica. Parenzo hai ragione, bisogna leggere un bel libro, leggerò per la terza volta il Mein Kampf. Tutti a Punta Canna e quello stronzo di Parenzo deve andare a fare in culo. Statue di Stalin, statue di Hitler, busti di Mao, poster di Stalin, pasta a forma di fascio. Ma dove cazzo abiti? Ma che casa di merda hai, Cruciani? Allora, caro David, ti sei accorto dai messaggi che arrivano? Tanto male. Abbiamo ripristinato un collegamento accettabile. Meno male. Un applauso alle maestranze della Sette. Assolutamente tecnici, non solo della Sette, ma anche di questa radio. Di Radio 24. Ho detto grazie alle maestranze tu, come al solito, di Radio 24 e della Sette, che prontamente hanno risistemato la trasmissione radiofonica come all'epoca dell'Istituto Luce, come quando c'era lui. Allora, no? E pare tutto quello che oggi sia la giornata dedicata, no? A questi. Tutto quello che hai sentito, tutto quello che hai sentito è il frutto, è il frutto della cazzata che è stata fatta in questi giorni della cazzata che i tuoi amici stanno per fare. Noi siamo amanti della libertà, tu sei amante di un'altra cosa. Amante di un'altra cosa, dei ghetti. Però l'amante può essere tutto equivocata. Beh, in quel senso lì. No, perché ghetti, stai diffondendo del veleno per carcere per chi semplicemente ha un'idea diversa dalla tua. No. Sei semplicemente vergognoso. Sei semplicemente vergognoso. Però un ascoltatore ha mandato codesto WhatsApp. Senti, cantano canzoni fasciste. Questo è il risultato della tua propaganda, questo. Adesso denunciami, Parenzo, fatemi una denuncia. Me ne frego il nostro motto, me ne frego di morire, me ne frego di Togliatti e del sol dell'avvenire. Se il sol dell'avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolor. Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a mano. Me ne frego! Lux, lux! Denuncialo! No, ma andrebbe denunciato secondo te? Bene, ma non devo denunciare nessuno. Ma secondo il tuo criterio andrebbe denunciato? Bergamo, vai Mauro. Sei ristaccato, pazzesco. Vai Mauro, dimmi. Oh? Vai Mauro, pronto? Dimmi Mauro. Ciao Cruciani. Volevo contestare l'intervento dell'Ampi su quella spiaggia di Punta Canna, perché potrebbero occuparsi di altre cose, visto che sono talmente inutili in questo momento che non servono assolutamente a niente. difendono... Cos'è che non serve a niente? Dimmi. Non servono a niente, ormai di partigiani che vivi assassini non ce ne sono più. Ci sono quattro sfigati che portano avanti questa cosa, ma cosa vanno a fare? Ma l'hanno letto la storia. Cioè, chi è che hai definito assassini, scusami? I partigiani. Parenzo? I fascisti sono degli assassini, questo signore forse ha vissuto in un altro paese. Ma lei probabilmente ha letto solo quello che gli interessa, guardi, io poi non mi interessa parlare. Ma io non intendo fare una discussione storica con, cui, con questo qui al telefono, ma non intendo, perché dice che perché è ignorante sulla storia, probabilmente. Guardi, gli americani al sud e i partigiani al nord hanno liberato l'Italia dai nazifascisti. Se lei, preferisce... Quanti omicidi assassini hanno fatto? Ma non me ne frega niente, qui. Ma cosa c'è? Questo ma non invece non importa. Quei morti non interessano. Non toglie nulla alla storia d'Italia. Bisogna ringraziare i partigiani che hanno liberato l'Italia e danno la possibilità a gente come lei e a gente come Cruciani di fare una trasmissione nella quale si può anche fare le lodi. Ma io non devo ringraziare nessuno. Pensi, ma cosa devo ringraziare i partigiani? Pensi quanto è bella la libertà che uno come lei può dire delle stupidaggini. Pensa anche quanto tutte è bella le famiglie la libertà. Che hanno avuto le persone assassinate dai partigiani, devo ringraziare. Assassinate, uccise, donne stuprate dai partigiani. Ma che ma cosa ma stiamo dicendo? Scherzando? Ma dove l'ha letto? Ma ragazzi, non facciamo una discussione storica, dai, Roberto da Latina, vai Roberto. Ma pensa che dobbiamo parlare con ignoranti. No, ma quello è vero, hanno pubblicato interi libri sugli assassini commessi da partigiani. Qualche dai. Episodio, qualche ma che episodio, qualche episodio? Migliaia. Violento c'è stato, ma non toglie nulla. Non Roberto da Latina, dai. La memoria della resistenza che ha firmato la Costituzione italiana. Roberto da Latina, non dire cazzate, dai, forza. Roberto da Latina, migliaia di assassini ci sono stati. Io voglio recitare questa poesia. Caro Benito, eri un puzzone, però le cose andavano benone. Tu tenevi l'amante mai al soldato, che almeno non l'hai fatta deputato. Tu godevi nel mostrarvi so feroce, ma proteggesti Benedetto Croce. La morte minacciava i tuoi cenni, ma salvasti la vita a Pietro Renni. Di te che dissero sei stato un puzzone e che hai messo l'Italia a te corone. Per me più che funzione fosse un pezzo. Ma che vuol dire? Oh, calmati, fermo, sei troppo esagitato, Roberto, sta urlando lui. Parenzo, fermalo tu, sennò chiamo la guardia io. Manda una volante, che devi stai fare? Stai fermo. Fermo che veramente ti mando una volante. Fermo, devi stare tranquillo, sennò ti mando una volante. Fermo. Fermo, devi stare tranquillo. Stai impazzito. Allora, Roberto, con chi ce l'hai? Non ho capito. Aspetta, parla bene innanzitutto, non a viva voce, togli viva voce, togli l'auricolare. Non so viva voce. Scusami. Ma che ti è preso? Spiegami. Ma mi dovevo sfogare. Ma bravo. Con chi ti devi sfogare? Con chi? Con quell'imbecille di Parenzo che quasi quasi giustifica che si debbano abbattere i monumenti fascisti. No, quello ha detto ma di no. Quello... Ma che devono venire a battere la villa, devono venire a battere l'Italia. No, allora Roberto, non ha... chi è che urla sotto? Ma che cazzo è uscito sto Parenzo? Ma chi è che urla sotto? Chi è che urla? Che urla sotto? Chi urla sotto? Io. E chi è? Con tuo padre. Tutto qua, ti saluto, ciao. Roberto. No. Ma tu che cosa hai a casa? Qualche cimelio? A casa io c'ho tutto, allora c'ho il busto del duce, c'ho tre libri di che? È chiuso la linea, via. Massimo da Milano, vai Massimo. Buonasera a tutti, avevo voglia di fare una riflessione antropologica sulle conseguenze di determinati che vuol dire che vuol dire riflessione antropologica, amico mio? Che vuol allora, dire? Allora, amico mio, arrivo subito. Dunque, visto e considerato che abbiamo tutti quanti una tolleranza ormai zero nei confronti della tolleranza, mi volevo riferire al fatto che quando uno ha un pensiero politico libero, no, però Massimo, amico mio, veramente cerca di essere concreto, non si capisce nulla. Non sono un ascoltatore medio, ma non mi interessa, tu non sai un cazzo di chi è il mio ascoltatore medio, capito? Non sai nulla, non sai nulla, non capisci una mazza, non capisci una mazza. Volevo soltanto dire, non sai nulla. Un attimo, io sto zitto se voglio stare zitto, altrimenti non sto zitto. Un attimo, la benedetta volta che magari impari qualcosa. Sì, è arrivato il fenomeno, è arrivato il professore, tutte spincazzature. Secondo te quello del van che gli ha corso dietro al motociclista, perché l'ha fatto? Perché l'ha fatto? Te lo sei mai chiesto? Perché è un imbecille. No, perché è stato provocato. E allora perché, che vuoi fare? Che fai? Ti provocano e corri dietro uno e lo ammazzi? Ah, la gente ha i coglioni gonfi. E dunque a un certo punto, ascolta, vatti a vedere un film con Michael Douglas. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Un impiegato normale che tu stai quasi giustificando. Tu stai quasi giustificando. Io se fossi il padre della figlia morta, mi incazzerei con quel coglione di motociclista che ha dato un cazzotto al finestrino. A parte, e chissà anche se avesse dato, anche se, aspetta un attimo, anche se avesse dato un pugno, e allora cosa vuol dire? Che ha fatto bene a rincorrere e ammazzarlo? Ma che sei impazzito? Non completamente ha fatto sbroccare una persona, punto. Come le, allora, a parte che questo, non sai allora, quello che è successo, innanzitutto non sai esattamente. No, hai letto come ho letto io, uguale. Ascolta, come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Dimmelo. Come fai a saperlo? Te lo posso dire. Un'altra cosa, arriva, che sei della Digos, che sei della polizia, che sei? Sono tutti questi fascisti che tutto d'un colpo vengono fuori. Ma ti sei mai chiesto perché? Perché sono tutti fascisti? Mille motivi. Perché ne hanno pieni i coglioni di questo PD, di questa tolleranza. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra con l'incidente del motociclista? Spiegami. Ho detto che volevo fare una riflessione antropologica. No, beh, lascia perdere la riflessione antropologica. Hai detto una sola cosa. Tu non hai capito un cazzo. Quello ha disturbato uno dando un pugno sul finestrino e dunque è stato la reazione è giustificata. Un cretino totale, dai. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Nilox.com, dove la tecnologia diventa sport. La Zanzara. Parenzo, quando vuoi. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Ma ragazzi, cioè ancora con questa ipocrisia del aiutiamoli a casa loro, cioè ma ci rendiamo conto di quanti paesi siano poveri e dove ci siano problemi? Cioè dappertutto, a quel punto aiutiamo tutto il mondo. Io vorrei un politico che avesse la franchezza di dire, e non l'ipocrisia, non aiutiamo gli stranieri né qui né a casa loro, ce ne stiamo per i cazzi nostri. Salvini, adesso devi passare su questa posizione, visto che Renzi ti ha rubato l'altra. Una sera tra amici, a cena a Napoli, si parla del più e del meno. Oh, ma ti ricordi quel personaggione? Ma chi? Quello che frequentava Anna? Quello che veniva sempre in treno? Ma chi? Come no? Andavano sempre in quello che era via Silea. E lui impazziva se non gli portavano la brocca in vetro. Beh, aumentano le testimonianze. No, aumentano le querele. Aumentano le testimonianze. Querele e gli schizzi di fango. Ma quali testimonianze? Usano tutti gli elementi che ho fornito io nella diretta. Aumentano le testimonianze. Ma non c'è tu dovrai un giorno smascherare no, questo non c'è vergognoso. Cosa, ma non io c'è lo nulla. Chiamo impeachment tecnicamente. Quello che voi state tentando di farmi fare la fine di Cossiga, ma non ce la farete perché io inizio a picconare adesso. State tentando di mettermi sotto scacco, ma non ce la la farete. Perché dici? Sì, siccome la maggioranza silenziosa stava diventando troppo maggioranza, allora avete ordito questo grande complotto internazionale costruendo false testimonianze, ma no, ma prendendo la gente testimoni chiama, finti, facendo chiamare delle barbe finte, perché questi sono, cioè, servizi segreti deviati messi ad arte al servizio di questa parte maligna della Zanzara per screditare la maggioranza silenziosa, no, di questo paese. Ma io non ci a questo gioco al massacro io non ci sto. Qualcuno forse prima di me lo disse, ma io ora, il presidente della Repubblica, vi dico che a questo gioco al massacro io non ci sto. Ragazzi, a proposito di Napoli, a quest'anno, proposito di Napoli, che cazzo è quest'anno? Mai vista prima, mai stato a Napoli, ma non ce la farete a farmi cascare, perché sono qua, perché in realtà ci sono due cose che voglio dirti. Guarda caso poi si interrompe l'inchiesta, perché c'è un timing anche su questo, si interrompe l'inchiesta sulle NG perché non va da nessuna parte e si apre un fascicolo su di me, cioè la classica polpetta avvelenata proprio. Allora, c'è una mia amica che mi scrive: roba. Mio nonno era un giudice del tribunale fascista a Milano, è stato ucciso davanti a mio papà di 9 anni e mia nonna. Mio nonno, giudice tribunale fascista, ha salvato oltre 10 famiglie di ebrei mandandoli scortati in Valle d'Aosta. In guerra si diventa bestie tutti senza bandiere. I partigiani non hanno mai detto a mia nonna dove lo avevano e se lo avevano sepolto. Mi spiace. E ci sono state delle vendette, non è un programma di posti, storia, però hai detto una cazzata. Migliaia e ci migliaia di gente ammazzata, alcune, ci sono stati alcuni effetti collaterali di una guerra civile che alla fine ha colpito anche. Poi una cosa più invece molto più attuale a Napoli, ciò non toglie quello che è stato il valore della liberazione. A Napoli sulla spiaggia di Licola. Io non parlo di Napoli perché sennò qui ogni volta la spiaggia di Licola, no, non c'entra niente. Hanno scoperto che questa spiaggia è diventata praticamente una spiaggia per gente che scopa, scambisti a tutte le ore, eccetera, eccetera. No, ma questo è molto importante. Licola Mare. C'è un'associazione che si chiama Licola Mare Pulito, ti prego. Un tale Umberto Mercurio che dice: tante persone di qualunque età. No, Mercurio. C'è tante persone. Mercurio. No, quello si chiama Mercurio, questo Mercurio che c'è. Ma Mercurio ha cambiato cognome, si chiama Mercurio prima. Tante persone di qualunque età, sia ventenni che gente più matura, vanno alla foce per fare sesso. Situazione indecente. Ma è un parente di Andro Mercurio. Situazione indecente. Basti pensare che solo pochi giorni fa un componente della nostra associazione, mentre passeggiava con la madre e la moglie, ha avvistato una donna che faceva sesso in spiaggia con due uomini. Oh mamma mia. È possibile che siano scambisti oppure persone che vanno lì a prostituirsi? Ma amico mio, perché questa persona non si è buttata in mezzo? Cioè, dov'è lo scandalo? Ma cosa dici, buttata uno in mezzo? Passeggiava con la madre e la moglie, ha avvistato una donna che faceva sesso in spiaggia con due uomini. Ottimo! Cioè, guarda, goditi la vista. Ma come? Fai ottimo? Una risata, passa avanti. Qual è il problema? Porcheria. Ma è meglio uno a uno, scusa, perché bisogna essere sempre in tanti? Sempre questo affollamento. Se tu fai su web la parola, la zona hard, cioè questa zona hard, fai Licola scambisti sesso, ma esce fuori effettivamente. Non lo faccio. Fallo. No, tu no, perché non sei della zona. Però voglio dire che questa è una grandissima cosa. Altro che chiudere questa spiaggia o far intervenire la forza pubblica. Questa è un'oasi di libertà. Anche questa è un'oasi di libertà che va assolutamente protetta, amici napoletani. Proteggete Licola Mare. Comunque, questo se posto ti posso fa. Dire, questa idea che bisogna sempre essere in tre o in quattro è anche un'idea un po' macista del fatto che uno, siccome non ha fiducia nelle proprie potenzialità, no, e ma capacità, è semplicemente perché è semplicemente una cosa. È semplicemente, annoia, è semplicemente il fatto che qualche volta vince la noia e tu per scopare hai bisogno per forza, come diceva il professorone, professor Sgarbi, di una terza persona. Ma terza, in realtà, o quarta persona. Se tu ti impegni è una uno cosa, a uno è anche divertente. L'uno a uno, poi dopo un po' rompe i coglioni, diciamo la verità. No, ma uno, voi, l'uno contro uno, in particolare con la stessa persona, non ne puoi, dopo un po' non ne puoi più. Francamente, questo non ne puoi è più. Un altro, ma non ne puoi più, dai, su. Argomento di conversazione che stai ponendo sul tavolo. Però sì, rimane comunque. Beh, non è che possiamo parlare sempre dei fascisti, parliamo di qualcosa di più attuale, no? Era meglio tornare al tema fascisti. Alessandro da Mantova, dai. Cioè, ragazzi, ma chi resiste all'uno contro uno, cioè, e in particolare con la stessa posizione, oggi è un, cioè, come dire, un quasi è da dargli una medaglia, è un resistente, è un, ma sì, resistente, ma dai, la parola resistente io la userei, la vera, diciamo, resistenza è quella, non quella dei partigiani, immaginavo. La vera resistenza è quella là, c'è, cioè, la monogamia, uno contro uno, eccetera. Alessandro da Mantova. Buonasera, io non ne posso più di sentire questi fascistelli del cazzo, meno di male, merda, dare degli assassini ai partigiani. Bravo, bravo. Quando hanno cominciato loro a rompere i coglioni, andare giù con i manganelli, Alessandro, all'attacco, allora, bravo. Alessandro, non si sente, non si sente bene. No, no, si sente, sei tu che non sente. Togli viva voce. Vabbè, auricolare, quello che c'hai? No, che non hai? C'è niente, c'ho solamente, guarda, c'ho le caldaie che vanno perché sto lavorando. No, hai tutto le palle qui. Gonfie hai, probabilmente. Sì, di brutto, perché non ne posso più. Ma ne posso più di cosa? Di cosa? I pakistani che chiamano che Beh, vabbè, vogliono riscrivere la storia. Voleva scappare in un camion, un travestito, ma l'ha soldato, ha fatto l'ubriaco, il grande Mascella. L'hanno trovato e giustamente è stato giustiziato su ordine del CLN. Io a Pertini gli ho dato la mano perché è un eroe. Ma quanti anni hai tu? Quanti anni hai, Alessandro? 48. Ancora con ste cazzate stai? Ancora... E dopo, sai cos'è ancora più bello? Che dopo loro pensando che fosse finita lì dopo la guerra. Fosse finita la guerra, no, bello. No. E allora? Perché hai cominciato tu a giocare? Ma il tu ancora 40? Sai perché Piazza Le Loreto sai c'è perché? Stata? Sì, lo sai perché c'è stata la Piazza Le Loreto? Sai perché? Perché quei pezzi di merda hanno messo della gente lì e l'ha lasciata all'aperto una dozzina di persone, adesso non so quante. Ma perché come sei? Monito. Ma perché ti sei appassionato di questa cosa? Brava, qua? Perché bravissima. Sei appassionato? Lucido. Perché ti ho liberato da quei maledetti bastardi che ti portano alla ma tu rovina. Sei, ma tu hai dei problemi? Ma secondo me tu hai dei problemi. Ma scusa, perché è un sincero antifascista? Cosa? Ma tu sei sincero? Io non capisco perché un antifascista viene trattato come un malato di mente e un neofascista viene trattato come un eroe. Ma no, chi te l'ha detto? Quelli di prima erano dei malati di mente. No, perché non li tratti. Anche questo qua. Anche questo qua. Questo è straordinario. Quando prendono i calci in bocca si cagano addosso. Ma perché tu dai i calci in bocca a qualcuno? L'olio di ricci nei manganelli, sto cazzo. Dopo quando la gente ha cominciato a prendere, a rivellarsi. Ma non ho capito perché stiamo parlando di umanità. Ma questo è impazzito. Ma chi è che ha cominciato? Che cazzo ha cominciato? Ma tu sei pazzo. Tu sei bisogna andarti, bisogna ricoverarti, Cioè bisogna come fai difficile che sei, facciamo. Sei da ricovero. E quello di Punta Cana si chiude. Si chiude Punta Cana. Ma che si chiude? Che cazzo è un paese libero questo qua. È un paese libero. Avete perso. È pazzo. Ma perso chi? Ma chi ha perso? La Costituzione è la più libera del mondo questa qui. È la più libera del mondo. Bravo. Lucido. Attacco all'attacco a testa bassa, bravo, lucido. Ci ha rovinato, hai capito? Ci ha rovinato. Questo. Ma perché questo dimostra che ogni bravo. Anni di Reich, bravo. Sto cazzo, grande l'armata rossa, grandi partigiani e grandi inglesi che ha resistito. Sì. Però scusa, non era la storia. Abbattiamo tutti i monumenti fascisti, dai Alessandro, abbattiamo. Ma quello no, ma che cosa c'entra? Vedi che se passi da fare in fronte. Vai a picchiare qualcuno in giro. Se no, hai mai picchiato qualcuno? Qualche fascista? Assolutamente no. Perché io difendo le mie cose con passione, non metto le mani addosso. Chi è che mette le mani addosso? I fascisti mettono le mani addosso. I fascisti mettono le mani addosso. Fare i duri e puri. E poi si cagano addosso. Senti Gabriele. Gabriele. Aspetta, fermo. Gabriele, vai, dimmi. Gabriele. Pronto, sì, buonasera. Dimmi. Che stai facendo volevo tu? Volevo dire che il 29 luglio, sì, che è il compleanno di Benito Mussolini, sì. Io chiamo Ascoli, organizziamo un pullman e andiamo a Predappio. Oh, che meraviglia. Ci dà per cortesia il numero di targa del pullman e da dove, così facciamo subito un arresto di massa. Ci dia tutti gli elementi, grazie. Ti do l'indirizzo di casa mia se... Sì. Grazie, così risparmiamo le indagini preliminari e quant'altro. Alessandro, e mandiamo immediatamente che vuoi dire a Gabriele che vuole andare a Predappio? Guarda che conosco anch'io degli amici faccioni, non è che gli salto addosso. È che io adesso lui sta dicendo, vabbè, a lui c'ha le sue idee, però quelli di prima che chiamano, che ah, lui adesso non ha il coraggio di attaccarlo, Gabriele. Ma cosa gli dica? Ma sai quanti faccioni ci sono in Italia? A quanti? C'è pieno di faccioni. Faccioni. I faccioni c'è pieno. Che vuol dire faccioni? I fascisti. I fascisti c'è pieno, ma faccio. Mi devo attaccare anche con degli amici? Ma non perché è amico tuo? Che uno sblocca a sentire che gli assassini sono i partigiani. Ma hanno tu hai sbroccato troppo qua, hai sbroccato troppo là. Fatti un calmante. Sei troppo giovane, non hai manco vissuto quei periodi. Stai tranquillo. Come li ho vissuti? Io non li ho vissuti, ma i miei li hanno vissuti. Queste terre qui le hanno viste. Ciao Alessandro. Fermi tutti, fermi. Sì, fermi. La zanzara. I'm a man. I stand and Lorenzo è con noi naturalmente per discutere di questa cosa incredibile. Io ribadisco per l'ennesima volta questa minchiata colossale che vuole fare il signor Fiano. È con noi chi? Una persona che si chiama Mussolini. Alessandro Mussolini, buonasera. Buonasera. Attenti che queste rischiate, eh? No, io rischio perché Parenzo è a favore di Fiano. Questo molto bene, molto bene. Per dirla alla Fantozzi è una cagata pazzesca. Eccomi. Anche perché voglio dire, ma non era meglio insegnare nelle scuole, nelle università il rispetto? Sì. Che c'entra fare una cosa così? Ma a parte che se uno trova veramente un magistrato zelante, quando metti sulla scheda elettorale scrivi Mussolini oppure vota Mussolini, poi fai conto io entro in una sala, c'è qualcuno che inneggia, si va in galera, cioè se praticamente scusami Alessandra, se è un reato vivente si può scrivere, sono un reato vivente, bravo, perché praticamente tu devi stare a dimostrare, a parte che la legge è uguale per tutti, non è che possono fare una norma dove io posso avere una deroga, la legge è uguale per tutti, cioè tu stai dicendo praticamente che Mussolini è un po' è così, dai, su, è una buffonata, dai, è David. Così, ma non ci sono delle priorità, ma questa può essere mai una priorità, una cosa che non c'entra niente, è avulsa. Ma poi di Capre D'Appio, dai, voi lo sapete, ma ve lo dico io, Capre D'Appio, il sindaco che è del PD, quello ci campa coi cimeli. Sì, vuole fare pure il museo vuole ma fare. Vabbè, un conto è fare un museo in cui si racconta la storia, un conto è far diventare quel luogo un luogo di ricordo in cui si viene fatta l'apologia del fascismo. Ma c'è la cripta della mia famiglia, ma scusami, ma io allora in casa mia giustamente va lì privatamente, ma non può diventare una passerella. Ma che passerella, non è mai stato. Non c'entra, ma la legge, la norma è fatta talmente male, così generica e pericolosa, che si estende a tutto, perché vanno a dire, quando viene una persona, fai conto che c'è un ricordo, un santino, una cosa, io gliela firmo, gliel'autografo, è quella che non è propaganda, non è che tutto può essere può dire, propaganda lì. Io lo devo denunciare, uno pelato arriva alla mascella, che dobbiamo fare? Così noi arriviamo alla legge beffa, cioè ci sono i delinquenti che in galera non ci vanno, e poi magari uno che di fai conti in campagna elettorale, uno non può fare propaganda, cioè sono riusciti a fare una legge contro una discendenza. Cioè, però scusami Alessandro, io ho capito, Fiano dice che il fascismo non è un'idea ma è un crimine. Come risponde Fiano? Ma Fiano può pensare quello che vuole, però io quello che credo, che tra l'altro è un grande segno di debolezza, perché in una democrazia solida come la nostra, che uno c'ha paura di una seduta spiritica, di una cartolina, di una cosa, cioè fatelo contro l'islamismo, il radicalismo musulmano e non quello, contro queste minchiate di proporzioni stellari. Scusa un attimo, tu una volta hai detto che bisogna inchinarsi al fascismo che ha fatto grandi cose, cioè gli italiani secondo te lo rimpiangono? Ma io, guarda, la verità è che spesso e volentieri a me dicono ci fosse stato in questa fase, però io li lascio dire perché giustamente la gente... Cioè secondo te gli italiani... secondo te gli italiani guarda, dal tuo... Gli italiani, se vedono che il PD in un momento così difficile, anche delicato, fa una legge che è così scema che non c'entra niente, dicono non sono in grado di governare. Ti dico che appena faranno l'approvazione di questa minchiata io mi autodenuncio e mi metto una maglietta con su scritto viva nonno. Ma che cosa ha fatto? Alessandra, dimmi sinceramente, una volta l'hai già detto. Che ha fatto di positivo? Anche di positivo che ha fatto? Benissimo. Io ti sto dicendo, diglielo a Fiano. Io ti sto dicendo una cosa, ti sto dicendo che non si può fare una legge così. Ma questo l'abbiamo detto già. Balneare. No, ma ti dico un'altra cosa. Perché i ragazzi, io li conosco, se tu fai un saluto romano, fai conto volante, perché delle volte a me quando vado in una stazione da una parte, delle volte mi riconoscono e ti fanno il saluto romano. No, mi fanno il pugno giusto per provocazione, per le cose. Delle volte parte la manina. Allora, a te ti parte la manina, a te ti qualche volta può partire, qualche volta come parte mi parte. Parte poco. Ma che vuol dire parte la manina? Poco, quella, il braccio teso. Una manina. Ma no, di parte la manina. Una manina, una manina a parte, scusate, ma che dite? Dai, parte la manina. Scusami, a me mi fanno il pugno e a me mi parte il polso. Ma che polso parte? Che manina? Ma bellissimo. Che dite? Senti, mi si alza autonomamente la mano. Questo è un fatto genetico inconscio. Io non ce la posso fare a reprimere. Allora devo andare in galera per 6 mesi a 2 anni? Questo è veramente. Ci andrò, che te devo riportatemi le ragioni. A me che... salta il polso. A me... Ma perché salta il polso? Non riesco a capire. Uno non può fare semplicemente ciao, ciao. Io appena è così. La trovo stupenda. Tu la trovi stupendo, ma per me è genetico. Il DNA è quello. Quindi, cari, è fatto. Andrò in galera. Dai. Io credo, perché Mussolini parte ancora la di moda? Io questo veramente aspetta, non capisco. Perché Mussolini? Mamma mia, Davide, elabora. E gli parte, gli parte la manina. Oh, gli parte la manina. Che devi ma fare? Uno può fare ciao, ciao. Non serve fare. No, non mi faccia ciao. Non è una cosa inconscia. Ed è così. Deve farsi. Senti, fare. Alessandra, scusate, perché Mussolini è ancora di moda? Secondo te? Ci vorrebbe. Ma è di moda o non di moda? Fa ancora paura agli imbecilli. Questa è la verità. Però ha fatto un po' di cose positive per l'Italia, l'ha fatte. Certo. E che cosa, per esempio? Molte cose positive. Tutto. Tutto che ha fatto la nipote, l'unica roba positiva che aveva fatto. La nipote che è simpatica, però. Lo sapete, io sono di parte. Ma sì, ma infatti la mozione degli affetti che è chiaro. Neanche obiettiva, lo sapete. Allora, i grillini però hanno detto che questa legge è liberticida. Dunque sono stati positivi in questo caso i grillini, i tuoi amici grillini. Hanno capito, persino loro, che questa è una legge, è vero che è liberticida. Cioè è assurda, perché è anche estremamente pericolosa. Quindi loro si può dire quasi fascista, quasi fascista sta legge. Beh, adesso esageriamo. Quasi fascista. No, questa è solo una legge imbecille, se la porteranno. Poi vogliono fare anche gli emendamenti, c'è cioè, una cosa così scema, fare gli emendamenti è ancora più scema. Adesso ti metto bandiera rossa così ti scatta la manina. Cioè, no, ti prego, già mi scatta, già lo sai, appena me la citi, per carità. Bandiera rossa, bandiera rossa, la trio è scattata, Parenzo, canta bandiera rossa, Parenzo, così scatta la manina, così scatta. Evviva il comunismo e lo vedi, la libertà. Lo potete dire, io non posso partire con la canzoncina. Ha ragione, lo vedi che se io faccio una che canzoncina fai? Sole che sorgi, ecco, io non lo posso fare, voi sì. Sole per forza, perché anche oppure adesso che siamo in estate, faccetta nera, qualsiasi cosa. Voi lo com'è che fa? Te la ricordi? Faccetta nera, la cantava della cuna, la piscina. Ecco, vedi. Aspetta, io non spera lo posso che più fare, voi ma sì, lo stai facendo? Capito? Tu a casa tua hai dei cimeli di tuo nonno? Perché vabbè, quello è normale. Che c'hai? Tutto, busti, un bellissimo ritratto che hanno fatto del 33 in lana, pensa, in della lana Rossi. Il 33 lana, è un anno critico. Il 33 è fatto bello con la cornice, sì sì. Cioè è roba che vale. È normale, no? Un arsenale. Qualche arma privata di tuo nonno ce l'hai? Niente, non ce l'ho. Le armi l'oro di Dongo? Quello ce l'hanno gli altri. Poi c'è l'altra questione, Alessandra, che riguarda la Boldrini, che ha detto che a molte persone dà fastidio guardare i monumenti fascisti. Così ha detto il presidente, il tuo presidente. Il tuo? No, il tuo. Il tuo presidente. Io sto. Tu che stai alla Camera, no io. Scusa. No, guarda, lei è da cacciare una che dice così. Pensa, è meglio che si dimette. Cioè, vuol dire che è antistorica e anti-italiana. Capito? Si deve dimettere, si ha detto una cosa. Dice, alcune persone sono a poco agio sotto certi monumenti. Non può stare lì, non si può sedere proprio, deve stare in piedi, davanti al Parlamento, davanti alla Camera, in piedi, e una così non si deve sedere, si deve essere cacciato. Non si deve sedere? Che vuol dire non si deve sedere? Dice. Non si deve sedere, deve stare in piedi in punizione dietro la lavagna, dietro qualcosa, dietro qualche bandiera. Dietro l'obelisco. Ciao Ale, ciao. Ciao, cari. Come che fai? Ma perché sei così amante? Beh, saluti da Roma, Saluti da Roma, cioè saluti romani, lei dice. La Zanzara. Ciao Cruciani, appena tornato da Pamplona, 3 giorni spettacolari, in Sierra al mattino corri lungo e alla sera 6:30 corrida, così han seccato tutti quei 6 tori di merda che mi rincorrevano durante il giorno. Saluti a tutti, soprattutto ai vegani. Hola, hola, hola. Andiamo avanti. E andiamo avanti, caro David, andiamo avanti. Chi c'hai stasera alla 7? Caro amico mio, ma sai che mi hanno segnalato, volevo dirtelo già prima, poi me lo sono scordato e te ne chiedo scusa, che il filosofo Fusaro dimmi. È stato, come dire, menzionato dall'account ufficiale di Donald Trump. No, te lo giuro. Guarda, mi era sfuggito e chiedo scusa se in apertura non ho, come dire, divulgato queste informazioni di primaria importanza. Ma se tu vai sull'account ufficiale del signor Donald Trump, che è inquietante per Trump, forse, no? È inquietante per tutti, secondo me, amico mio. È la fine di tutto. Hashtag tutto video. Dice Donald Trump: I have just discovered this amazing philosopher. Ma non è vero, dai, no. Te lo giuro. Ma no, dai. Te lo assicuro. Comunque, Diego, ragazzi, Fusaro, totally agree with me. No, ma no, non dire cazzate, dai. Trasfigurazione sorosiana, Pluto islamizzante. Oh, senti, amico mio, mi è stato segnalato, ti assicuro. No, è una bufala, sicuramente è una bufala. Te comunque, mando, ragazzi, te lo giro via WhatsApp, così lo vedi. Nei prossimi giorni, prima della chiusura estiva di questa trasmissione, caro Parenzo, tornerà il signor Fusaro. Il filosofo. Tornerà ottimo, il signor Fusaro, ottimo. Con altre sue perle. Con altre... Sì, intanto, sì, sì. Intanto andiamo a. Dove andiamo? Gilberto da Cosenza, vai, Gilberto. Cosenza, Gilberto. Promette male, comunque. No, sì. Perché promette malissimo. Male? No. Dimmi, Gilberto. Buonasera a tutti. Vai, Gilberto, che palle con sto buonasera, dai. Ok, andiamo subito al sodo. Una critica al dottor Parenzo. Ah, ma no, sei partito piano. Cosa ti ho detto io in apertura? Guardi, promette male. Come facevo a saperlo? Dal nome, dal luogo, da dove chiama, dal tono perché della che voce. Che c'è contro Cosenza, scusa. No, ma contro Cosenza nulla, anzi, Cosenza là, ora sono stato un sacco di volte. Ma ti piace la Calabria? Saudita? Ti piace la Calabria Saudita? Boh, cioè, sui bronzi di Riace, insomma, c'è delle cose anche belle, insomma, no? Mare, bello. Vabbè, si può discutere a lungo. Vai, Gilberto, dimmi. Beh, sì, andiamo subito al sodo. La finisca di fare il buonista, il difensore dei poveri, degli ultimi, perché... Non è perché è un grandissimo bluff. E lui sta di bluff. Tu sei un bluff. Il dottor Parenzo, certo. Ah, ecco. Lei, dottor Parenzo, è un bluff. Lo sapevo che prometteva male. E lui sa di bluffare molto bene. Sì, in sì. Quanto se fosse veramente. Per intanto, diciamo che non è di sinistra. Per intanto, non sei di sinistra. Capisci? Da, non ti dà questa sinistra. Informazione che bluffi e non sei di sinistra. Ovviamente, fa soltanto il finto buonista, difensore dei poveri e degli ultimi. In quanto se fosse veramente tale, sì. Incomincerebbe a sposare la causa. Del popolo palestinese. Che vuol e dire? Andiamo subito. Ma glielo dico subito. Loro sanno benissimo, lo sa tutto il mondo, no? Che loro si stanno estendendo su terreni che non sono i loro. Ma chi? Cioè, esattamente come facevano i vecchi. Ma io non intendo affrontare una discussione sul Medio Oriente con lei. La posso affrontare con Lucio Coracciolo, con l'Istituto di Studi Internazionali, ma non posso affrontare con lei una discussione seria sul Medio Oriente. Non posso, perché lei non sa neanche dove si trova sulla cartina geografica. La città di Hebron, ad esempio. Però, fermi non tutti, posso. Fermi tutti. Gilberto, fatti. Gilberto, però scusami. Mi posso permettere fatti. Di dire che non ce ne frega un cazzo prego, adesso prego. Di parlare di no, no, no, no, giusto per correttezza, perché no. Ma correttezza di che cosa? Correttezza cosa? Allora, è vero o non è vero cosa? Che vi state estendendo e state rubando senti, ma chi state, chi? Ai palestinesi? Ma senti, mi hai rotto i coglioni, Moreno, mi hai rotto i coglioni. Mi hai rotto i coglioni, chiaro? No, mi hai rotto, no, ma lascia perdere la figa, non stiamo parlando di figa. Mi hai rotto i coglioni. Io non voglio parlare di in questa sede di israeliani, palestinesi. No, lo faccio quando voglio io. Adesso che fai le domande, è vero? Io sono un vigliacco. Ma tu sei un coglione invece. Io le sto dicendo una cosa seria. È vero che vi state estendendendo. Innanzitutto, vi state cose. Mica io sono. Che siamo? Cosa? Che siamo? Netanyahu, i rappresentanti del governo? Attenzione. Ma è una cosa complessa. È una cosa molto complessa. Se tu rubi uno spazio a un altro, è ovvio che quell'altra persona si arrabbia, no? È il minimo. E cerca di contrastare. Ma cosa c'entro io? È il minimo. Cosa c'entra lei? Lei dovrebbe fare con una piccolissima minoranza del popolo israeliano fare battaglie e mettere la sua faccia appositamente per dire alto là, stiamo facendo delle grandi ingiustizie. Alto là, quindi, lo dica lei, alza le mani, si arrenda e torna a farsi ricoverare. Dovresti essere a favore dei palestinesi, dice Gilberto. Ma perché in questa trasmissione ognuno dice Gilberto? Ma chi è Gilberto? Ma questo è un ascoltatore, giustamente dice la sua. Tu hai questa capacità di prendere un quisque del popolo, ma dice Gilberto, ma chi se ne frega di quello che dice Gilberto? Posso dire, me ne frego di Gilberto. Sempre più sottile, lei lo me sa ne finito. Frego di quello che dice Gilberto. Fino a oggi ho vissuto fino a oggi senza il parere dice di che Gilberto. Li state massacrando. Certo. La cosa si fa lei interessante, però. Ci ho ripensato. Si fa oggi è l'11 di luglio. Ok, io fino all'11 di luglio, fino a due minuti fa, ho vissuto senza sapere l'esistenza di Gilberto. Ma che c'entra? Secondo te stavo bene o soffrivo? Tu fai una bella vita. Tu fai una bella vita. Lei è di sinistra? Lei è di sinistra? Sei di sinistra? Ti vergogni. Vergognati. Il finto ripeto, difensore dei poveri. Non mi vergogno di niente. Ok? Va bene. Ciao, Gibè. Ciao, Gibè. Moreno da Roma. Moreno da Roma, vai. Moreno. Pronto? Dimmi, Moreno, dimmi. No, guarda, riguarda ieri quando è stato detto lì in trasmissione, riguardo le deportazioni ebraiche ordinate da Mussolini. Sì, beh, qualche persona l'ha mandata dai tedeschi, l'ha affidata ai signori tedeschi. Volevo puntualizzare soltanto... Che no, cosa? Che volevi puntualizzare? Non c'è niente da puntualizzare. È arrivato De Felice, Lorenzo De Felice. Purtroppo le deportazioni sono cominciate il 16 ottobre del 43, dopo che Mussolini fu sollevato dal carico. Sì, ma ragazzi, non è una trasmissione... Ma con che stai dicendo? Senti, però, scusa Moreno, tu sei fascista, Moreno? No, io non simpatizzante, voto... simpatizzante. No. Allora, guarda, io ti spiego. Io non ho votato per 10 anni, sono tornato quest'anno a votare con le elezioni di Roma. Ma questo, allora? Se ne frega. No, nulla. Io mi sono andato a documentare su determinate cose che effettivamente a volte non è stato come ce la raccontano Cruciani, dai. Senti, Mussolini ha contribuito alla deportazione degli ebrei Hitler, per dire alla francese. Questo è un punto incontrovertibile, cioè non è che adesso arriva il revisionismo di Moreno da Roma. No, io non dico che Piero dalla provincia di Vicenza, ti saluto, ciao Piero, provincia di Vicenza. Signori, buonasera. Vai Piero, grande. Questo vai. Compromette bene. Vi faccio un monumento a tutti e due, perché state dimostrando con la vostra trasmissione in quale merdaio stiamo vivendo. Eccolo tutti l'altro. Dicono la loro, tutti dicono questo, tutti dicono loro e guardano solo il proprio orticello, così non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte. Non si fa solo cagnara, perché questo parla adesso della Palestina, l'altro parla di Mussolini, cose di Mussolini successe 70 anni fa. Bravo. Ma tu di che vuoi parlare invece, Piero? Io vorrei parlare... Di Parenzo, no? No, Parenzo, per l'amor di Dio, è un mestruato mentale, quindi lasciamo da parte. Scusi, non ho capito l'espressione. Mestruato mentale. Quindi anche bene. Perché hai utilizzato l'espressione mestruato mentale? È un poveretto, ma è simpatico. Ha il sangue che non gli circola nella testa, quindi c'è parecchie minchiate, ma è corretto. Se le lasciano dire è giusto che lui le dica. Questo è simpatico. Almeno è simpatico. Quindi uno dice quello che crede di certo, dire. Certo, certo. L'importante è che abbia il cervello allecciato qualche volta. Nella nostra Italia sono molti che hanno il cervello scollegato. E tu dici che Parenzo è uno di quelli. Eccolo qua, l'esempio meraviglioso. No, Parenzo è uno che è velocissimo a non decidere mai com'è la sinistra, com'è la destra, com'è l'Italia. Sono velocissimi a non decidere mai. Vabbè, e quindi siamo nella merda. Che ci vuoi dire? Allora, tu? Ti spiego una cosa. Sentiamo. Musulmani. Io ho lavorato una vita, sto lavorando ancora con gli islamici, giustamente. Sì. Sono gente abbastanza seria. Abbastanza seria. In che settore, lui? Abbigliamento. Costretto dagli italiani a uscire, perché i tempi di D'Alema e company hanno... Vabbè, adesso non allarghiamo il discorso. Lasciamo perdere. Allora? Io vado all'estero e sono ancora all'estero, ho consumato 7 passaporti, dentro, fuori, Egitto, Tunisia, Marocco e avanti. Io non ho mai avuto problemi con nessuno perché ho sempre tenuto a mente due cose. Cosa? Non parlare mai di politica e di religione in casa altrui. E quindi non mi hanno mai rotto le palle. Vabbè, però Piero, al di là di questo, che vuoi dire? Scusa, perché non si è capito ancora che vuoi dire. Io voglio dire che ma tu sei quel mitologico Piero che fece un'invettiva contro Parenzo? che ora sì, gli ho dato dei, quella volta sì, che mi è scivolata anche una granata, comunque chiedo scusa, mi è scivolata anche una granata e chiedo scusa. Beh, una granata, che granata ti è scivolata? Io una bestemmia. Ah, per quello pensavo che ti fossi scusato con Parenzo. Io ho grande rispetto per i malati di mente, non si preoccupi. Una granata, quindi qua c'è tutto un miscuglio, politica, religione, sì. C'è un casino della Madonna, invece bisogna, per conto mio, prendere binari ben precisi. Sì, vabbè, però adesso binari ben precisi, ha parlato lo statista, Churchill. Faccio l'esempio di ieri solo, ieri all'assemblea delle associazioni giustiziali di Vicenza. No, però scusa, adesso non allarghiamo il discorso, questo. Faccio un esempio, ma non è focus economia, dimmi Piero. No, ma non è questione di economia, è questione di un attimo. Cioè, ieri c'era Enrico Letta, c'erano tutti, c'era Boccia, c'era il relatore che in inglese là, che non si capisce mai quello che dice perché parla con una gomma in bocca, quindi non. Ma chi è questo? Friedman. Friedman parla che sembra che abbia un ciuga in bocca e quindi non è che. Allora? Ci sono altri relatori che parlano un po' meglio l'italiano di lui. Esatto. Allora io volevo chiedere a loro che mangiano sempre il solito disco, dicono sempre le stesse cose e nessuno fa mai niente. Volevo chiedere a loro, però siccome che eravamo in 500, volevo chiedere, ma perché non avete invitato il dottor signor Zonin a dire che fino all'anno scorso vi teneva per la catena e quest'anno vi date del maiale? Perché non l'avete invitato? Cioè, voglio far capire che oggi i grillini sono presentati alla Camera qui salva Danai e Rotti perché non vogliono gli aiuti stati. Facciamo un altro Lehman Brothers anche in Italia? Cioè, dovevano stare attenti prima come viaggiava la Popolare Vicenza dal 2001. Ma tu che vuoi dire? Che tu sei un imprenditore grillino? No, assolutamente. Beh, Piero, no. Però io voglio dire una cosa. Io voglio dire una cosa, caro Piero. Io voglio capire che cosa ne pensi delle idee parenziane. Cioè, delle idee parenziane sull'accoglienza, sul venite tutti, sul volemose bene. Ma chi ha detto volemose bene? Puro. Lui è il populismo. Ma di cosa parlate? No, ma perché dai credito a un disturbato mentale? Disturbato mentale. Grazie del disturbo. Mi sembra evidente. Qual è il problema? No, ma lo dico segnalando il fatto che il Servizio Sanitario Nazionale si prende cura di casi come il suo. A te ci vorrebbe il TSO immediato. Sai cosa è il TSO immediato? E quindi siamo pari. TSO immediato, firmato dal sindaco. Trattamento sanitario obbligatorio. E forse abbiamo risolto un grosso problema. Ma io voglio capire una cosa: lei ha avuto una vita però felice in generale? O ha qualcosa che... sono fatta felice, non sono andato in cerca degli altri, come hai fatto tu. Me se l'ho fatta felice. Date, e non vivo di nessuno, chiacchiere, ma vivo di fatti. Bravo, Piero. Non vivo di chiacchiere. Non vivi di chiacchiere. Tu vivi di chiacchiere, anch'io. Ma tu vivi di chiacchiere. Piero no. Piero produce, esporta. Che produci poi? Bravo, scusa. Ma cosa bravo? Ma che cruciale? Di che cosa vive? Scusa. Dai, vabbè. Non è col culo degli altri, ma l'ho fatto col mio. Perché se la prendo nel culo, è il mio culo. Se mi piace così. Se le piace, chi è che così fa il culatone col culo degli altri? Chi? Parenzo, beh, chiaro. Ma io voglio capire una cosa: perché scusami, io vivrei di chiacchiere, Cruciani? No, questo è un punto proprio pianeta. Che io non capisco. Come sei di un altro pianeta? Sì, sei fantastico. Grazie, Piero. Fantastico. Grande appoggio da imprenditori del Nord-Est. Ma vai, Piero. Vai. Sgarbi è forte, tu sei forte. Quella lì è la fetta che ti portiamo avanti da una vita. Chi? Parenzo, giusto. Sì, hai ragione. Ma tutti quelli di sinistra. Ma tutti quelli di sinistra. Una cosa vergognosa. Ciao Piero, presto. Ciao. Ragazzi, statemi bene, buone vacanze. Parenzo, saluta Parenzo. Dite qualcosa, Parenzo. Ma non saluta nessuno, nulla. Buone vacanze su qualche bel yacht. Si sa che ti rivenga il cervello normale. Ciao, qualche bel yacht. Questo è colpa tua di questo clima che hai creato nei miei confronti. Che poi io vivo di parole. Ma tu di che cazzo vivi? Non ho mica capito. Fermo perché lì. Se la prendono con me, fermo non lì. Con te. Sì, fermo lì. Questo è il punto. La Zanzara. Cruciani, cazzo il manganello di Benito, qui nell'armadio in ufficio. Che dici? Mi metteranno sotto inchiesta? La Zanzara. Cruciani, io la pipì la faccio nel bidet mentre mi lavo. Non sai che goduria. Mohammed Vicenza, vai, riprendiamo ragazzi. Intanto ci sono delle associazioni cattoliche, anzi associazioni, io dico, di invasati, non associazioni cattoliche, che vogliono proibire il concerto che ci sarà in una città che si chiama Villafranca di Verona alla fine di luglio di Marilyn Manson. Sapete, il satanismo, la Bibbia, la religione, Marilyn Manson, eccetera eccetera. Questi qua hanno scritto, hanno fatto una petizione, sono oltre quasi 3.000, ovviamente per che cosa? Per le trasgressioni, per le blasfemie, per la Bibbia bruciata di Marilyn Manson. Ma lasciate in pace Marilyn Manson e fategli fare concerto a Villafranca, che cazzo ve ne frega a voi. Mohammed da Vicenza, vai Mohammed. Sì, sì, buonasera. Ecco. Are you Muslim, dear? Vado? Sì, are you Muslim? No, non capisco niente. Sei Muslim? Sei Muslim? Se no, guarda, vediamo. Sì, sono musulmano. Per la cronaca. Dimmi. Allora, dimmi. Niente, io volevo intervenire perché c'ho voluto. E il tempo conta. Allora, sì, Mohammed, però fatti capire bene, avvicinati bene al telefono, parla serenamente, tranquillo, dai, dimmi. Ok, allora praticamente si continua a parlare in questi giorni delle immigrazioni che vengono, allora? I migrati che vengono. Qui. Sì, allora, sì. Qui la situazione che si fa. Tanta concentrazione su queste notizie e si lasciano sempre le cose più importanti. Comunque, quali sarebbero, Mohammed? Fatti capire bene, se sei in un posto dove non prende, non chiamare. Le cose che succedono in Italia, dei problemi che ci sono, le leggi cosa si applicano. Ogni evidenza che succede in Italia, c'è le leggi che le cura. Non si capisce un cazzo. Non si capisce un cazzo. Ti richiamiamo. Alberto da Macerata, vai. Oh, me sono Alberto. Sì, dimmi Alberto, dimmi. Volevo portare a conoscenza la mia opinione sulla trasmissione che fate. Sì, la tua. Volevo portare a conoscenza non ho capito una mazza. Comunque, dimmi. Volevi parlare della trasmissione? Dire, dimmi. Questa trasmissione, La Zanzara, con i protagonisti Cruciani e Parenzo, io ne faccio un uso profilattico. Cioè? Posso spiegare? Ecco. Sì, spiega. Dovete sapere che io sono naturalmente predisposto ad irritarmi, ad arrabbiarmi, ad avere degli eccessi di ira, diciamo. Sì, sì. Allora io da quando vedo, ascolto La Zanzara, mi metto lì a... mi riprometto di... No, io non mi devo arrabbiare, nonostante quello che sento, mi riprometto e sfido me stesso, quello che sento dire da voi, non devo arrabbiarmi, cioè, non devo tu, arrabbiarmi, siccome perché questa, le occasioni ce ne sarebbero tante. Siccome questa trasmissione fa incazzare, normalmente tu ti metti lì e dici... Mi metto lì per farne un uso profilattico, con cui evitare di arrabbiarmi. Bene, non è male questa cosa. Si arrabbia, ha problemi al sistema circolatorio, può avere problemi al cuore, e ci riesce o no? Ci riesce o no? Allora, per prevenire tutti questi fatti, sì, ma ho capito bene, ci riesci o no? Per Marco direi che ci riesco sempre più, man mano che più a sentire la voce quello che dite, che ha un carattere altamente profilattico, con due personaggi da profilattico, come realmente bisogna riconoscere. Sì, perché noi siamo professionalità. No, perché noi siamo dei cazzoni che vanno dentro il profilattico. Questo lo dice lei. No, più o meno questo vuoi intendere. Vuoi far intendere questo più o meno? Ma adesso fate intendere voi, io sto dicendo delle cose. Vabbè, Alberto, mi ha rotto i coglioni. Daniele... intendete voi, no. Io ne faccio un uso profilattico con delle autentiche personaggi da profilattico che sono Cruciani e Parenzo. Bravo, hai detto la tua cazzata. Bene, Emanuele... Sì, Emanuele da Roma, vai. Daniele, provincia di Perugia, dai. Eccoci, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi, dimmi. Io volevo intervenire soltanto sulla questione di quel signore di Chioggia. Ma per 25 anni il tratto autostradale Vipiteno-Verona 250 km sono pieni di vetrine del grande o del peggiore o il migliore, del signor Benito Mussolini. Nessuno per 25 anni abbia rivendicato. Sì, adesso ci devono rompere i coglioni con questa storia. Hai ragione tu, Daniele. Adesso ci devono. Crociari. Poi un'altra cosa. Ma non bisogna essere di destra per stare dalla parte della normalità. Uno può fare quello che a me non me ne frega nulla, non sono né di destra né di sinistra né di centro, eccetera. È una questione di logica. L'Italia è piena di simboli fascisti, di simboli del Duce. Nessuno rompe i coglioni a nessuno. Da Vasto fino al Salento esistono tutte quelle statuette di Padre Pio. Io invece che c'entrano? Che c'entrano? No, dico, nessuno ha mai reclamato. Ma che poi c'entrano le statuette di Padre Pio, scusa? Le vendono sulle autostrade. Ma che c'entra Padre Pio? Che c'è da poter vendere le statuette di, vabbè, di Padre Pio che c'è? Vabbè, ma ho capito, ma Padre Pio e Benito Mussolini hanno avuto un a parte che si diceva che fosse un fascistone pure lui. Speciale. Però poi questa è l'altra cosa. Quell'altro ieri. Vabbè, ciao, mi ha rotto i coglioni, ciao Daniele, mi ha rotto i coglioni. Mi ha rotto i coglioni, ciao, ciao. Allora, però, David, c'era un super fascista l'altro giorno alla presentazione di una squadra del Verona, credo della curva del Verona, si chiama Luca Castellini. Luca Castellini, uno che ha detto addirittura sul palco, grazie ad Adolf Hitler. Chiamiamo. Sì? Castellini, Castellini. Pronto? Sì. Sono Cruciani, come stai? Ciao, bene, prego. Non c'è male, non c'è male. Ma che è sto casino no, su Twitter? Non c'è male, no, non c'è male. Che è successo? Casino. Non è sul casino. No, ma ho capito perché hai citato ma Hitler, però. Aspetta. Ma circola liberamente, così, no? Perché così? Perché sì, perché è la festa e si dice la roba in più, si dice le cazzate così. No, però scusami, perché? quando uno dice questa festa qui è stata voluta da Adolf Hitler e tutti. Ma dai, ma si vede la che te, ti piace anche a te, dì la verità. Ma no, ma io mi faccio una risata. Io mi faccio una risata. No, certo che mi piace. Io non mi faccio nessuna risata. Ma no, non mi piace, mi faccio io una risata. Io non mi faccio nessuna risata. Parenzo di non si fa qua. Una risata davanti a Parenzo, lascio stare a Parenzo. A te però qualcosa di Hitler ti piacerà o no? Se no non avresti... Ma va là, è roba storica, la sua storia storica. Sì, ma perché devi citare Hitler? Ma perché questo è in circolazione ancora? Eh? Ma perché sto personaggio è in circolazione? Allora, perché? La prossima festa dirò che ce l'ha pagata Stalin, va bene? Qui sono pari. Un conto è l'attività politica che io faccio da 25 anni. Vabbè, questo... militante. Un conto è militante, conto neofascista, è no militante. Le cose, lo stadio, neofascista, la passione, altro che... la palestra di vita che andava come vuoi. Un sì, vabbè, ma tu puoi fare quello che vuoi allo stadio. Un conto sono le goliardie tipiche dei veronesi, gli eccessi, basta. I veronesi lo capiscono, i non veronesi come voi non lo capiscono. No, ma fino a cosa vuol dire goliardia? Fino a quando uno deve tollerare neofascisti in circolazione, voglio capire. Fino a quando? Finché non fa un'altra legge speciale? Piano, non sta facendo legge speciale. C'è già la legge. Adesso se uno gira col gagliardetto con scritto per l'onore d'Italia, fa la galera. Va bene così o no? Meno male. La dovrebbero ricoverare a lei. Fa il tuo lavoro che gli altri fanno. Io so distinguere le cose. Ho 42 anni, sono mica un coglione. Ma no, ma questo sarebbe da discutere. Questo è da verificare. Però scusami, scusa amico mio, qual è la goliardia nel citare Adolf Hitler? Dov'è la goliardia? La goliardia dell'eccesso veronese, questo qua spiegatele a te. Fino a vivere a Verona un annetto e ci arrivi anche te. Ma, capito, no? Ma non è che c'è la legge speciale a Verona, eh? Cioè non è che c'è lo statuto speciale di Verona per cui si può citare Hitler sul palco così a cazzo di cane. Cioè, se uno cita Hitler è perché nei confronti di Hitler ha un'ammirazione, perché certo, altrimenti non lo cita. Ma so, non è mica ci, vero, non ci pigliamo per il culo, dai. Vengono citati anche gli altri estremi, non è mica ma vero. Ma chi? Ma quando vero, mai li citate voi gli altri estremi? Dai. Ma la gente mi conosce, sa come sono. Ma nessuno dice niente. Ma chi ti vuole cacciare via? Chi ti vuole mettere in prigione? Uno però deve avere il coraggio delle proprie idee, dire Hitler è un punto di riferimento. No, questo è un ragionamento. Fai sì, te. È un collegamento goliardico alla realtà politica che vuoi fare tu. Ma non goliardico. È e la gente lo sa. Tu vuoi fare questo ragionamento qua? No, non chi lo fa. Sì, però guarda certo, caso, lei appartiene a una forza neofascista che allora, è forza lei, nuova. Ma che neofascista? Va a vederti, quello che è le decisioni giudiziarie, va a vederti le carte, va a vederti gli statuti, va a vederti le robe. Una vergogna. È una vergogna che lei sia ancora in circolazione e libero di dire che dovrebbe andare in galera. Che dovrebbe andare in galera? Dovrebbe andare a fare i lavori socialmente utili. Ma che va a chiamare la galera? La galera non si chiama neanche per i nemici più nemici. Invece, siccome tu sei un pezzo di merda, chiami la galera con chi vuoi. Eccolo, la galera eccolo non la qua, eccolo spirito. Lavori socialmente la utili per lei di Forza Nuova. Vabbè, adesso che c'entra pezzo lavori di merda. Lavori socialmente utili. Lavori socialmente utili. C'hai il disco che gira te. Beppe. Legge Scelba. Verona vive una realtà particolare ed è famosa per questa sua estremizzazione anche delle cose, anche ad arrivare ad ambiti siamo politicamente scorretti, quindi non so, gli insulti a quelli che magari non ci sono più, io parlo dell'ambito stadio, delle cose estreme che capiscono i veronesi, quelli che sono vicini, quelli capito, che conoscono. Amico mio, però non è lo statuto speciale quindi di Verona, se uno sale sul palco e dice Hitler, dice Hitler per il 99,9% delle persone, non è che a un certo punto uno dice no, però noi siamo goliardici, ho capito, ma che cazzo allora, vuol dire? Allora penso, cioè l'Italia non è Verona, l'Italia non è Verona, dico io. Certo che non è Verona l'Italia, ci mancherebbe altro. Tu dici purtroppo non è Verona. No, io dico l'Italia non è Verona, Verona non è neanche Veneto. Torna Salò. No, non abito a Salò io. Torna Salò lì. Abito un po' più in su. Torna a Salò, che è l'unico posto per te quello lì. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Nilox.com, dove la tecnologia diventa sport. La Zanzara. Testa di cazzo di Parenzo che parla dei cingalesi che vanno difesi, che quando vai dalla tua fidanzata e ti sei dimenticato di comprare le rose, loro ti vendono la rosa. Ma ammazzati, coglione, vaglielo dire al fiorista italiano che deve pagare le tasse e che se non fa lo scontrino gli fanno 10.000 euro di multa. Pezzo di merda, Parenzo, pezzo di merda. Vai Parenzo, vai, io sono con te, sono con la maggioranza, falli rosicare tutti, champagne a volontà. Parenzo, ieri sera mi invita una ragazza a cena, entro, guardo la tavola, c'era la bottiglia di plastica in bella vista e la tovaglia di carta. Partiamo male, partiamo molto male. E sì che sembrava anche una persona per bene. E allora ragazzi, andiamo con Tipi da Zanzara. Vai Donato. Tipi da Zanzara. Donato da Varese. Dimmi Donato, cosa ti ha spinto? Sarà mica una festa, sarà cosa mica ti una ha festa. Spinto? Cosa ti ha spinto? Dimmi. Cosa mi ha spinto? Cosa ti ha spinto? Cosa ti ha spinto? Sciocco che non sei altro. Cosa mi ha spinto? Non capisci niente. Renzi, non lo voglio chiamare assassino, perché ormai gli dà, si è accorto che è un assassino. Meno male. Però lo dici lo stesso. Io l'ho detto da 4 anni, stavo dicendo. Renzi è il peggior politico. Se noi a posto di Renzi avessimo messo veramente, come dice Sgarbi, 2 capre, gli italiani sarebbero meglio. Ricordatevi che Renzi è il primo attentatore di questo povero paese. Renzi ha sempre detto che l'importazione degli africani, dell'Islam, non dicevo questo, ma dicevo dei poveri migranti. Dovevano andare finché il problema non si sarebbe risolto. Oggi quel porco maledetto che dovrebbe essere messo in galera, i magistrati si muovono e lo vadono a mettere in galera, perché io racconto una cazzata a questa merda che hai a fianco, l'ho raccontata a una merda, a un solo soggetto, ma se io la racconto a 10 milioni di italiani. Io devo pagare per 10 milioni di volte perché ho raccontato 10 milioni di menzogne. Renzi, intanto, che ha fatto l'Italia, deve essere messo in galera. Allora ha pagato a tutti i premi vendori della RAI, quella RAI che bisognerebbe dargli fuoco. Fuoco! Ma non ti sembra un po' eccessivo il suo eloquio? Anche con la certa di quelle che ha preso il programma di Golato De Bosciato. Ma l'abbiamo già detto, l'abbiamo già dato. Ma io direi che abbiamo fatto. Ho già tanti danni. Sì. Greco. Ma che c'è? Ancora Costa. Ma avete mai visto come si muove quello in quella trasmissione con il mio canone? Avete visto che come si permette di parlare così dell'ottimo Greco? Come si permette questo imbecille? Che poi cammina anche male, ha una postura orribile. Ma poi si è fatto male al ginocchio. Via a Bortolo, di venire a casa mia, sì. Ma Bartolo, ho bisogno di Bartolo, farmi una specie di lavanda gastrica che purtroppo la devo pagare. Se gentilmente me la potesse venire a fare, allora mostrerebbe di essere un vero medico, non con il bambinello in braccio, quella retorica di merda che sei detto, un negro in braccio, perché se metto un bianco non fa tre. Tu se fate vedere un negretto sulla spiaggia il mondo deve piangere. Se fate vedere cristiani che vengono uccisi per questa mano di Allah, il mondo non dice un cazzo. Per quanto riguarda gli usoli, che cazzo facciamo? Ma su tutto interviene proprio. Cioè, ha argomenti per tutto, mi pare. Mettiamo in moto 100.000 cazzi islamici per chiamarsi 5 islamiche. Ma non si può sentire. Ma è una porcheria. 7 milioni di mauritani. Ma la Bonino mi interdetta. La Bonino mi sembra la sorella maggiore di quella Nannini che mi sta sul cazzo come una pure cosa. Per la Nannini, cioè. La Nannini allora. Che c'ha? Perché la Nannini ti sta su coglione? È andata via dall'Italia perché dice che insieme alla sua compagna al figlio. Devo andare a dire perché gli ce l'hanno fatta arricchire. Appena che gli ce l'hanno fatta arricchire, sarà andata via con quelle canzoni di merda. Vabbè, le canzoni. Ma che cazzo stiamo parlando? Di Pino Daniele forse? Sei uno schifoso. Quale responsabilità ti prendi che sei incapace di intendere di volere? Quale responsabilità ti prendi? Non puoi neanche essere processato perché sei stupido. Io sono orgoglioso. Ma sapessi mezza Italia si volerebbe per venirmi a salvare, uno di merda. Processatemi, sono pronto. Quel maledetto Soros, forse è entrato ancora un Matteo, vabbè, ma è entrato Soros, è entrato quello che sta facendo esplodere il mondo, il criminale amico di Renzi, amico di tutti i comunisti, di quel porco di Bersani che ha rovinato milioni di persone, è scappato, recrudescendo in America, è scappato dal comunismo. Ma perché tutti in galera? In carcere! Ti devo venire in carcere per quello che ha fatto con Equitalia, Visco e tutta la banda criminale! Ricordate che è una setta satanica! Aspetta, io mi ricordo se ognuno di questi chiamasse causa, facessero causa a questo qua. Aspetta, questa è buona però. Il PD è una setta satanica, che vuol dire? Ma che vuol dire? Scusa, io ti credo. Come ti credo? Quante persone ti seguono a te? Secondo te, quanti seguaci hai? Ma nessuno. Aspetta, fai sentire quanti seguaci hai. Tutto l'ospedale psichiatrico già solo. 5 milioni, 4 milioni mi seguono con le braccia aperte. Io veramente mi auguro che tutti questi qua si mettano insieme, facciano un'azione collettiva contro questo qua. Solo che l'unico problema è che non è processabile, perché è uno stupido, incapace di intendere di volere. Renzi è un maledetto! Sono dei criminali! Renzi è un mafioso! Senti, Donato! Ma non si può dire una roba così, però. Io questi ladri li avrei avuti in casa mia. Ma che è successo? Con i cazzi in mare a ciondolare. Sai cosa? Gli africani lo dirò al mondo intero. Ma quale mondo intero? Con l'imperio agli occidentali. Mi mostrano gli africani che cazzo sono. I loro legislatori sono cazzi loro. I figli che hanno messo al mondo. Allora se lo tagliassero. Ma io sono allucinato, scusami un attimo. Sterilizzare. Non avremmo avuto questi problemi. Ma guarda che posso dirti quando che non mangiare un bambino. Ti devo salutare, ma riportatelo in corsia, ma legatelo stasera, legatelo a letto. Mi auguro di andare a lanciare qua, alla sesta lì. Lì non ti possono chiudere la porta perché sono tutti comunisti. Hai comunisti, ma cosa dice? Ancora per breve, perché l'Italia sarà degli italiani, di chi è morto per l'Italia. Ma non potete legarlo, letto, italiani! Merda! Italiani! tipi da zanzara. Beh ragazzi, il top assoluto. Intanto scoppia la vicenda, come sapete, Elisa Isoardi Salvini. Solo due parole, perché qualcuno comincia già, sapete che sul settimanale Chi è stata pubblicata questa foto con Elisa Isoardi, che dovrebbe essere la fidanzata di Salvini, che bacia un avvocato romano. Però vi voglio leggere la dietrologia di Twitter. Elisa Isoardi, lo scoop di Chi e i maliziosi. Il Cavaliere non poteva fermarlo? A pensar male si fa peccato e per certo si sbaglia pure. Eppure in molti in queste ultime ore hanno covato il sospetto e sui sospetti il web è fortissimo. Si parla del gossip bomba del giorno, o meglio della foto bomba, quella che ritrae Elisa Isoardi baciare un altro uomo a Ibiza. Quello che sembra in tutto e per tutto un tradimento, fino a pochi giorni fa, infatti la conduttrice su Instagram palesava tutto il suo amore per il leader della Lega Nord. Ma tant'è, quelle foto bomba sono state pubblicate in prima pagina su Chi? Rotocalco diretto da Signorini. Un settimanale Mondadori, ovvero dalla famiglia Berlusconi. Ed è cosa nota, i rapporti politici tra Berlusconi e Matteo non sono certo ai massimi termini. Sicuro come la morte, lo scoop non è stato commissionato dal Cavaliere, uomo di mondo e non incline alla vendetta. Il sospetto che si respira online in una discreta pioggia di tweet è più blando. In molti, infatti, si chiedono se per caso il Cavaliere ha dato il suo ok alla pubblicazione. Insomma, si pensa che Chi, settimanale mondadoriano, abbia avuto assestare un colpo a Salvini. Bah, ragazzi, io non ci credo a sta roba. Non ci credo. Allora, Federico da Torino. Vai, Federico, vai. Non c'è Danilo da Roma, vai. Ciao a tutti, buonasera. Volevo semplicemente dire una cosa sulla Boldrini per quanto riguarda sì. Le sue affermazioni sui monumenti. Non sono né fascista né comunista, me ne frega un cazzo. Diciamo che, come diciamo a Roma, della pagnotta. Però volevo fare un piccolo elenco, ma neanche un elenco, citarne quattro di monumenti. L'Artale della Patria. Aspetta un attimo, fermo. Pronto? Sto parlando con Castagna? Sì, buongiorno. Salve, sono Cruciani, come stai? Bene, grazie. Non c'è male, tu sei dell'associazione Christus Rex, se non mi sbaglio, no? Sì, sono responsabile. Senti, ma perché vi opponete a questo concerto di Marilyn Manson? Me lo spieghi? Perché quello che dice, quello che fa, quello che canta, quello che rappresenta offende gravemente il cattolicesimo, e allora? La Madonna, i Santi. Sì? Brucia la Bibbia. Ma lui brucia la Bibbia, non credo che durante il concerto bruci la Bibbia, no? È stato fatto. Sì, è stato fatto, d'accordo, ha fatto tante cose. Marilyn Manson è certamente un personaggio, no, sui generis, ma qual è il problema di un concerto? Che vi frega, il concerto è al chiuso, eccetera, chi vuole andare ci va, altrimenti non ci va. Cioè, questa mobilitazione, addirittura la raccolta di firme. È una che dimostra che in 10 giorni ne abbiamo raccolte 2700, dimostra che questo personaggio, o meglio, quello che fa e quello che dice, viene considerato un oltraggio. Ma un oltraggio a cosa? Religione. Ma 2700 persone, a parte che è nulla 2700 persone, ma che vuol dire oltraggio? Anche se uno denunciatelo per oltraggio alla Costituzione, lui prende quella denuncia che fate e si pulisce il deretano con quella denuncia che fate, essendo una denuncia fatta in Italia. Se tu pensi, a parte che non so se esista ancora oltraggio della religione, se vuoi denuncialo, ma che c'entra impedire il concerto, bloccare il concerto, annullare, chiedere al sindaco di non so quale città del Veneto di cancellare il concerto? Ma se uno vuole andare a vedere il concerto di Marilyn Manson, che è malato secondo te? No, malato no, però certamente ha dei gusti un po' strani. Ha dei gusti strani. Alquanto strani. Tu invece che gusti hai? Tu della Christus Rex, voi che cosa siete? Scusa, siete cattolici, apostolici, romani, integrali, cioè che significa? Sì. Che vuol dire? Cattolici. Cattolici. Cattolici tradizionalisti. Cattolici tradizionalisti. Tu sei sposato? Sì. Quanti anni hai, scusa? 41. Per te non ho capito. Per esempio, fammi capire cosa significa essere cattolici tradizionalisti. Cioè, l'adulterio, cioè il tradimento, secondo te, cosa dovrebbe comportare? Cioè, è concepibile nella tua idea di mondo? L'adulterio è un peccato. Sì. È un peccato mortale che va confessato. Sì, un peccato mortale. Cioè, secondo te dovrebbe essere punito dalla società?